tutta questa goma che va in alto. Vecchio, dammi il numero, faccio di 20 anni sta radio. È allucinante. L'ho aperta per controllare, ma addirittura c'è il circuito stampato, tutto quanto stagnato. È antica allora, proprio era moderna, era antica. Quella antica, tu figurati che là, il circuito stampato e tutto quanto, tutto fatto in piste stagnate, capito? Però, ma meglio a riparare quello lì. Che sei un bel vecchiotto, 60 anni fa, sta cosa. E l'ho pulito perché c'era un problema sul commutatore, magari come c'era polvere o roba del genere, quindi ho spruzzato un po' di quel coso per i contatti e ho visto che sta funzionando. Ogni tanto raschia, capito? Raschia oggi, raschia domani, ci pulisce. Avanti, signor Tom. Signor Bacchi. Così è. Vabbè. Ma oggi rimaniamo così. Domani dirà Giambemmo. Adesso il telefono era con il strano amore. A vedere un poco, ma che si porta, voglio che te lo riguardo. E te lo torno a guardare. Magari c'è quello gozzo, lo spostamento si è staccato qualche cosa. Ma ieri sera funzionava con il gioiello là. Un gioiello, stasera accendo. Nullo, zitto, muto. Anche magari mi sono stato pigliato, allora ho cominciato a vedere un po', a regolare, a fare, non c'è nulla da fare. Non c'è nulla da fare, bisogna andare dal maestro. Ma che problema c'ha? Non c'ha ricezione o non si sente? C'ha né ricezione né trasmissione. E allora sicuramente c'è qualche falso contatto in qualche pista, qualche saldatura fredda. Che ha riparato lo so, domani lo porto. Perché quel remme sale a fondo scala, non riesci neanche a regolare il quel remme, proprio soldo ti fa. Magari qualche fesseria, dai. Scusate un attimo. Prego, attendi pure. Hai capito tu? Sicuramente, qualche cosa che si è staccata e non riesce a... Da sera ha fatto male agli arrivati dozzi. Sì, ma ti dico che stavo lì, un gioiello. Ha fatto le regolazioni, come ho detto. Sbagliato, l'ho ripetuto, giù l'auto. No, non funziona. Domani, riportaglielo. E te lo metto intorno a posto. Devo trovare un colpo, uno che poi faccia il passaggio. Vediamo un po' se domani è libero mio figlio, lo domando, se no qualche duro si affaccerà. Se no lo do a Marino, lo dai, Bacchi. Lo dai a lui e te lo porta lui. Anche domani è libero, sì, domani è libero. Giamo, se ti faccio rubiazzi e glielo porto. E così bisogna fare. Signor Bacchi, io fa così bisogna fare, no, non ci mu più. Dopo di 40 anni è già pigliato la Romandia. Certo, è di più di 40 anni. 58. Allora già più di 40 anni. Fallo al massimo quasi 70 anni. Non ho visto mai il cacciavite. Si è spaventato quando ha visto il cacciavite, la luce ha pigliato lo sottomaro e non può camminare più. Comunque. Quello lì, un filtro lo deve avere Bacchi, perché sopra ci va messo un altro filtro, quindi uno lo deve avere. Non lo so, non ho mai aperto, non ho mai curiosato nulla, domani chiedo. Perché ce lo deve avere a testa in giù, ce lo deve avere. Ah, perché ne si ribidi? No, perché l'altro va piazzato sopra a testa in su, hai capito? Non so neanche come siamo fatti questi filtri, nulla, zero riporto zero. Io l'ho visto come mi sa che sì, che sette 756 di numero è. Non lo so. O 76 mi pare, boh, una cosa del genere. Ehi, vediamo un po' se c'è Marino. Marino, ci sei? Vino, vieni avanti e fammi lo piolino. Per remeto, a carasci che ci senti. Riattateci, avanti, andiamo pure. C'è stato un bel... su questo che lo chiudo, ma che dolanzura, oh, mi avrei risolto. Ieri sera, quando stavo parlando con te, dopo io ho appoggiato il microfono a una parte qua, che l'ho spostato, e ne è caduto in terra. Fatto lui. Ah, mi ha fatto male all'anca, pure mi ha fatto male. Legate pigianti. Tu quello, fai frutto. C'è una del marcetto a compararli. Deve essere mossa un po' il potenziale. Stamattina l'ho aperto e gliel'ho attaccato più bene. Il colpo l'ha staccato, si è piegato in pratica. No, piegato non si è piegato, muoveva solo un po' e boh. Io ho preso e gli ho stretto di più le lamelle che c'ha. Quella lamelle c'hai? Due lamelle c'ha attaccata alla scheda. Lo dici più o meno quale microfono si può adattare, capito? Era Savelta. Mi Savelta era rosso. Perché se gli metto la capsula dell'orto qua, il microfono è potente, ti ricordi anche dietro l'attacco, il microfono fuori chiaro. Al cacione della mondetta bisogna buttarlo, buonasera. E non mi hai riconosciuto chi sono? No, non ti ho conosciuto, nulla. Torino sì. Franco, ho rubato il microfono. No, ho cambiato la radio a vedere come sta andando questa. Ah, giù visto. Sei più metallica. Sto scendo al minimo. Anche perché non è che posso aumentare più di tanto qua. Se no si fonde l'antenna. Ma... ma chi? Franco, quello di poco fa. Super bomba. Adesso sto scendo al minimo, capito? Anche perché lo sto pilotando con 10 watt modulati. Posso aumentare ancora, eh? Ma non c'è già l'antenna quasi. A capaterra si muove. Non credo, è una rossa e qui mi fonde anche il capo, perciò, perché non possiamo aumentare più di solito perché c'è un RG58, capito, tutto qua. Regge RG58 abbastanza. Regge. Avanti to. Hai compreso, cari? È il signor Franco. Andiamo, beh, andiamo. Rimane un po' metallica, rimane, come modulazione, come radio. E la posso ancora aumentare, ma la lascio così, capito? Anche perché se la aumenti più di tanto poi va a strappare. Anche perché adesso sto scendo con l'ho abbassato di watt pure, capito? Ma quello che toccai, ti devi ricordare. Rimane un po' amplificata, però metallica. Ecco cos'è. Beh, certo, rimane metallica, sì. Però lo abbasso un altro un po', così dovrebbe andare bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Andiamo bene, andiamo. Ah, sei uscillato. Riesci a comprendere pure. Però signor Bacchi. Ma così sono, adesso più metallica. È metallica, Anche poco fa era così. Poco fa era di meno. No. Io la differenza non l'ho giudicata. Aspetta un attimo. Così è metallica, infatti. Adesso l'abbasso. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, così andava bene, la sera così. Ma ne va così, signor Bacchi? Non c'ho, ma non si porta più. Non c'ho, dove? La posso aumentare, diminuire, però dopo la fastidio, è fastidioso, dai. Ma quando è troppo poi, capito? Così è giusta, una modulazione giusta. In lontananza magari è scarsa. Eh beh, certo, adesso... c'è il microfono distante anche, sono a 10 cm con l'MB più 4. MB più 4, via. No, ne pompano quelli lì, ne pompano. Certo che pompa. Ce l'ho al minimo lì, perché se l'aumento poi è fastidioso, capito? Aumenti strappa e non va più bene. E c'è Maria, che fine ha fatto? Ci ho sentato un attimo perché è andato al telefono. Ah, al telefono. Al telefono è andato. Eh sì, al telefono. E così è, al telefono. Andiamo a mettere il telefono, ga. Adesso chiamiamo al dottor Marino. Se ti rispondi, Dottor Marino deve essere in ferie. Sto lavorando fra. Già so. Proviamo a vedere a chiamarlo. Oh, signor Marino. Guidando sta. Guidando? Guidando, squillando. Aspetta, tanto che voglio provare un'altra radio a vedere come mi ascolti. Se me lo vi. Prova, prova. Poi tra sì. Gigi abbiamo... Guarda questa, un momento. Prova. 1, 2, 3, 4. Questa è una radio normale, un quarantino normale. Ma ti sei abbassato il segnale, ti sei abbassato. Come radio è buona, però si è abbassato anche il segnale. Eh beh, certo, una radio normale, quasi 4 watt. Dica se, ma che segnale dica se... Fate vita, anche se c'è 4 watt. Di questa radio, capito. Paghisso, Andiamo bene. Fatto. Ehi, a Gianmarì. E vai, sto chiudendo che c'è gente, dai. Sentiamo domani se tu va bene, dai. Salutoni, dai. A domani. Saluto anche a Bacchisi, a Franco, dai. Emanuele, a te. No, non ho più entrato. E vabbè, saluto anche a lui, allora riprendi tutto, io chiudo. Ok, ciao Gianmarì, ci risentiamo. Avanti Bacchisi. Bacchisi, oh. Franco, mi ti ha salutato Gian Maria. Già, ciao Gian Maria, buona serata, buon tutto, saluto il QRA da parte mia. Ok, chiudo. Ok, ciao Gian Maria, a domani. Ciao Gian Maria, buona serata, sono rientrato adesso. Avanti tu. Ok, Gian Bacchisi, allora, ma Franco bene lo senti? Ho sentito che stavo parlando al telefono, anzi ascoltando il telefono, sbidava e non rispondeva. Avanti. È andato a rifugio. Signor Bacchisi, non ti ha risposto? No, nulla. Due volte l'ho chiamato, nulla, non si è dormito. Poi gli sono drommi. Più di un materasso. Io penso che sia dormito. Magari il telefono viene alla chiama e vede nell'altra. Ci vuole di compagnia a me. Io sono in soffitta e il telefono è in cantina. Quasi buru. Dimentichi che c'è il biliardo. Ti ho chiamato e ti ho risposto adesso. Avanti signor Fra. Sta commutando Franco, sta migliorando. Se bisogna che domani mi faccia un caffetto in più. Un cavolo. Ma sulla giudrattabile, non dico un avio, tutto è sulla giudrattabile. Che ne pare? Un cassino qua. Il filtro? I filtri? Sì. E non gli capire che scuola hai fatto. No, domani non le faccio un altro, mi ha detto che mi sei bagliato, un pacchettato. No, sono veloce che sono attaccato. Sono veloce che sono, fagli il capo. Se non sorprendimi. Vediamo se ci sono signor Bacchisi, è così. Domani ve ne faccio un altro del cavetto, se c'è un minuto di tempo me ne faccio un altro. Solo che mi devo prendere un commutatore a 4. Commutatore a 4. Sì, l'altro per fare il commutatore di un cavo. Qua si fa a commutare questo che c'è a 3. Devo mettere uno a 4. Che fai? Se fai 3 più 2 ne perdi un posto più, sono due posti che perdi. Adesso vedo, il prossimo mese, secondo come va me lo ordino, di quelli in ghisa. Io ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti sono, ti soldi costa un po' garibi. Tutto, la roba buona si paga. La montagna è accuarata. Capito? Ma quelli sono fatti bene, sono fatti. Sono tutti pesanti. Possiamo farli in lega dall'alluminio, no? Così a quella di Ghisa. Vabbè, ma quelli in Ghisa no, fanno conti, no? No, se negli altri affariti noi. Quando commuti non si sposta sul tavolo, perché dovremmo, invece quelli di alluminio, in plastica, roba varia, come se giri, tira e tu chiude. Ma infatti, ma ecco che ciò entra anche la plena, non molto, deciso, lontano entro. No, perché il commutatore quando deve a cosa deve commutare bene, deve essere che non è fatto un vento dalla radio, non so che è tranquillo. No, lo scatto lo fa, lo fa anche bene, solo che da un parecchio all'altro lo sente, si sente. Sì, l'ho provato, l'ho coso, fritto, tanto bene. Guardate, non c'è niente. È sempre lo stesso, i soldi che ti dà 15 euro. Allora, nuovo ricerca. Buttalo via, buttalo via. Sì. Ah, per il prossimo mese vedo cosa e me lo ordino di quelli in ghisa proprio. È stato fatto veramente. E tu, sai cosa dobbiamo fare? Il regalo per Natale ti fai? Sai poco, ma sai. Avanti fra. Stavo dicendo, Bacchi, io ho costruito quella Grand Prix. Dimmi. Ma non rendono, perlomeno l'ho provato in campagna, ma non c'è nessuna resa, capito? In ricezione o in trasmissione? Ma no, in ricezione. In ricezione è ottimale. Io lo uso se ci facciamo tutto, no. E lo passo a scala. La Grand Prix funziona benissimo. Bene, bene, bene. Solo che io ci ho messo lo stilo di cose, della frusta nera. Allora io gli ho fatto i tre radiali, il piano di massa gliel'ho fatti da 1,60 m e 2,75 m il centrale. Cioè, il centrale è quella frusta nera che c'è, tra 80 cm caricata. Per il coso sia in cima con la vita regolabile. E i radiali li ho costruiti in alluminio leggero da 1 metro. E ho capito, hai preso la frusta nera, l'hai messa nella basetta centrale. E poi praticamente gli hai fatto il radiale da 1,60, così. 1 metro, 100 centimetri, 1 metro. E ho 1 e 3 di stazionario. Ho capito, e come resa com'è? Mi hanno dato buona la resa, tutti ultimamente vanno bene, anche come ricezione è una bomba. Tu l'hai sentita molte volte, so com'è con l'antenna? No, è abbastanza buona, è a Puglia. Infatti è così, è buona. Ecco. Ma voglio sperimentare con l'antenna lì, io ce l'ho la frusta nera. Ci metto la frusta nera e poi gli faccio il radiale da 1 metro, così è. La frusta nera però devi avere la frusta nera. Ci vuole il barilotto maschio sotto. Sotto il barilotto maschio. Lo fisci alla basetta e poi al barilotto c'è il PL attaccato. E lì dovevi filettare e metterci un pezzo all'interno e poi salvarlo e attaccare la frusta nera. Ho capito, sì. Se no se lo fai a infilare così non c'è massa. Io l'ho preso, ho trovato un dado puntato, mi ha visto il dottore, mi ha visto sotto la sonera, da lì gli ho fatto il petto, lo scendo, c'era un 5 cm, il dottore, sempre salvato. E poi al piede. Scusa un attimo Bacchi, ma se io ho la frusta nera con la basetta la fisso alla base della Grand Prix, che non c'è niente, io ho solo la base, intendiamoci, della Grand Prix, la fisso lì la basetta e poi ci faccio, li metto, una volta che è fissata ci faccio il radiale da un metro, rende lo stesso, no? È uguale. È identico, però il radiale deve essere a massa con la carrozzeria. Eh certo, la massa la prende dalla basetta, no? Io la prendo dalla basetta, no? Dovrebbe andare a funzionare al 100%. No, deve funzionare, funziona benissimo così, per forza funziona. È come sia una macchina. Eh certo, perché tu li stai facendo, il piano di massa glielo stai facendo con il radiale da un metro. Ci fissi la frusta nera con la sua basetta senza modificare niente, perché c'è già il foro. Io ho la basetta già col foro della Grand Prix, capito? Sì, tu sei tutto. Io avevo solo la frusta nera, dunque mi sono dovuto adattare, infilettare, fare, soldare e via dicendo. Allora sì, se sei quello lì sei a cavallo. Anche veloce farlo. Infatti voglio fare quella prova lì a vedere cosa dice. Solo devi collegare il capo, non devi aggiungere, devi toglierlo e partire da sotto. Capito? Partire da sotto col capo. Vabbè certo, il capo mica lo aggiungi. Il capo devi fare la discesa, quello che è, quanto è 10 metri, 10 metri di RG58, dall'antenna la porti giù alla radio, capito? E se no c'è dispersione. Io infatti la mia è barretta, se il barretto c'è, come lo uso sia per il sopra che per sotto. Allora quando mi serve per scendere il palo sopra, devo buttare e mettere il barilotto e andare giù. Scusa, perché non ci metto il commutatore invece al barilotto? È perché sul terrazzo si bagna. Ah, ho capito. E se no si bagna, e quella è la mala sorte. No, ci ho pensato mille volte al commutatore. Scusa, il capo dove scende della Grand Prix? Scende sul terrazzo, poi si salta il terrazzino e scende ancora in palese. Ah, ho capito. E quindi il commutatore non lo puoi neanche mettere, altrimenti se no devi salire e commutare, ho capito perché l'hai fatto. No, se devo cambiare antenna devo salire per forza, devo o commutare o mettere il barilotto, salire devo. Io sono convinto che quell'antenna lì fatta in quel sistema rende più della boomerang. Doppio, al doppio della boomerang rende di più. C'è più radiale. Infatti. La voglio proprio provare perché io ho una frusta nera qua, che è lunga, chissà che è un metro quell'antenna lì, quella frusta nera lì. E provo a fare quel discorso, e poi la provo. Sì, ho capito. Invece con la PCL 800 non lo puoi fare, capito? È diverso, perché quella lavora in corto. È in corto. Non so perché, come fanno a farla lavorare, non ho capito un'altra. E quella lavora in corto, praticamente c'ha due avvolgimenti. C'ha due avvolgimenti, ma sono in corto. Perché tu misuri l'accordo, l'opportunità, sia in una sia l'altra, è tutto uguale. Esatto, lo stesso procedimento della Mantova 5. Esatto, la Mantova 5 lavora a massa. Invece la Mantova 1 cercando di costruire la Mantova, è un'antenna di banda, 11 metri e 27, c'era tagliare lunghi 1,80 o qualcosa del genere, e l'ho tagliata. Adesso stavo piazzando con la stazionaria a Carasci. Bisogna fare le cose, sistemarle bene. Per avere stazionato. Ma adesso che la Grand Prix deve essere quella che gli ho dato io. Non lo so. La gente funziona bene. La vista in campagna è buttata da parte. L'ho lucidata, ha fatto quello che ha piantato. Non si riesce a così vedere il controllo. Adesso dopo buono ci riprovo, quando fa una bella giornata, ti asseguisci proprio e via. Devo riuscire a farla funzionare. Ehi, ma chi? Piano piano già si risolve. Sì, no, lo rinnovo, ma che cosa? Ma lì non si sente ancora. Adesso non ho guardato il telefono. Fende cosa? O è giocando con un ibuti? Ma lo do la ciamaio. Rompo le bucciate e andiamo a momento. Vediamo un po' se... Mi profilla. Non rispondi, c'è Arbacchi. Squillo ma non rispondi. Allora vuol dire che è lontano e non lo sente. Molto, è molto. Sicuramente è così. Un casino è adesso. Non risponde. Ma l'hai visto che adesso ho dato sino... Sino alle 10, se ti trovano verso le 11, 12 e mezza ti fate un verbale in macchina, ma roba da fatto. Alle 10 deve essere tutto esaurito, non si riesce a capire. Se vai in giro per la strada pieno. E piano piano se l'ho beccato qualche uno, ne hanno beccato uno nel continente, non so dove. E praticamente questo ci aveva un infarto in corso, ha preso la macchina a recarsi lì al pronto soccorso, hanno fermato i carabinieri, hanno fatto 500 euro di verbale. Molto l'uomo. Ma te ne immagini? No, doveva chiamare l'ambulanza. Ah, non si doveva mettere in viaggio. Oggi è la legge in favore del ladro. Tutti i ladri. Avanti. Mi sto ritirando dal canto perché sto rientrando da una festa da roba. Caccia più cammino e mi voglio verbale. 400 euro. 400 euro, 400, 500, dipende chi trovi, capito? Un casino. Tu vai in zappa, vabbè, già ci vuole un po' di religione, capito? Malattia c'è la gente, ha mangiato tutto, già ci vuole un po' di religione, ma la religione è religione però. Bacchi, come di contagi ci sono, un casino, Ci sono molti poco, 141 mi sono. Una cosa del genere. 40 rimane. No, sono 150. Aumentato hanno, e allora se non mangiare il pesce. Mi sta dicendo che adesso richiudono, torna tutto, un bel casino sarà. Vabbè. Che ci vuoi fare, purtroppo? Se ci vuole, ci vuole, bisogna chiudere senz'altro. Se ci vuole bisogna farlo. Così è la vita, ragazzi. I giovani si stanno più male di noi, noi male o bene ci arrangiamo, siamo in casa, ma i giovani devono andare fuori. Ma tu pensa adesso, i ristoranti lo stesso, non lavorano più come prima. Lavorano a pranzo, a cena cosa aprono a fare? Niente. Cena non fa nulla, le pizzerie cosa fanno? Dalle 6 alle 10 cosa fai? 4 pizze ti insegnano 20. Consegna a domicilio, sino alle 11. E poi basta, più ribattenti. No, male stiamo andando. Stiamo andando troppo male. Se continua così andiamo ancora più male. È un bel casino, ui. Speriamo di uscirne da questa epidemia. Andare. Vai tu. Un attimino che sono al telefono. Capito Bacchi, è un carabiniere che sta lamentando, va. Male. Ma per andare peggio così. Noi in Sardegna non è che siamo messi male. Tu pensa lì in coso a fuori continente, questa roba sta aumentando di brutto, gli ambulanze tutte in fila, ragazzo. Stavo guardando una trasmissione, ma per carità. Pensare, io c'ho un cugino a Cuneo, è tutta rossa, la zona è tutta rossa. Infatti lui abita in campagna. Ma tu dice, sto bene perché abito in campagna, non posso muovere. Quelli che sono in città sono legati. E Lombardia è la più pescata, eh? Lombardia e Piemonte. Piemonte è lo stesso. E noi ci stiamo avvicinando. Noi siamo giallo. Barcasino, a ospedale lo stesso contagio, non se ne può più, non se ne può più. Devo pensare, devo avere un intervento io, da un mese di febbraio. Lo chiamiamo noi. Poi sono andato a rompere un po' le scatole, ma anche se, se lei decide di farlo, ce lo posso anche fare, però io ti consiglio di non farlo. Ma tu non hai visto, adesso hanno rinviato anche le patenti non le puoi più rinnovare sino a, praticamente ad aprile del 2021. Ma viaggi lo stesso però? Sì, viaggiare sì. Io lo devo rinnovare a novembre. Lo stesso momento mi sono rinnovata. No, io l'ho rinnovata 4 mesi fa alla scuola guida, ho fatto. Io devo andare a fare gli speciali, a Rizzetto. A Rizzetto non esce più. Oh. Sì. Ogni volta canto me la dimmo. E quattrini cruni. Guarda, ti sto dicendo che c'era una differenza. Io alla scuola guida ho pagato 80 euro e mi hanno fatto tutto loro. Buono, invece quando vado io alla Rizzetto 230, 300, non ho preso. No, io l'ho fatta la scuola guida, la visita addirittura l'ha fatta la polizia di Stato, il medico della polizia di Stato, vista, prove reazione, tutto quanto, più i versamenti, 80 euro. Buono, aspetta, hai risolvito il 100%. Eh beh, a Rezzetto non esci più, ui, poi c'è un po' di gente, anche se vai presto, dalle 4 c'è gente lì. C'è dalle 4 gente, io un giorno sono andato presto. Io non sì, qualcosa, se non esiste, c'è la gente che c'è già un'ora in fila. E tu pensa che se non mi sa che arrivano sino a 20 o a 25 persone e poi chiudono tutto. Il coso, 25 per ritiro a patenti, per la visita, per la vista ci passa 90 persone, entrano 90 persone. Ma lì sono veloci, solo a lasciare la patente, e voglio poco sorrenti. Va bene, la fra, io ti saluto, mi passo a prendere le medicine perché è arrivata già l'ora per me. Ciao Franco, buona serata, grazie alla compagnia. A domani se tutto consiglio ce la chiediamo ancora. Tore, ciao Tore, buona serata, ciao. Ok, ci sentiamo Bacchi alle prossime, ciao, ti prendi fra. Per me QRT, ciao Bacchisio, ciao Macchiatore, all'eventuale sculture, ciao. Ciao Franco, ciao Bacchisio, ci risentiamo. Ciao Tore, ciao, buonanotte. Sta scendo, microfono normale, va bene, questa è la gemella, questa però è col MC60, capito? Va bene, segnale 9 più 10, la radio è 5, da microfono normale, va bene. Sì, lasciala stare inserita, ma se togli il processore non esce, troppo basta, lasciala così col processore inserito, il microfono normale, e poi andando bene. Molto di più, però come vedi la radio è eccezionale, c'ha i fatti suoi, li tira fuori tutto. ci piove, poi ognuno può dire quello che vuole. Io forse a Sassari, con l'esperienza che ho acquisito nei Kevob, sono il numero uno, quindi ti posso dire vite e miracoli di quel terrario, e il 430 come vice trasmettitore se lo mette in culo tutte e tre, sia il 140, sia il 180, che soprattutto il mitico 440, perché ho fatto le comparazioni, la ricezione che ha il 430 e la trasmissione che ha il 430, il 440 non ce l'avrà mai. Nonostante sia una bellissima radio, per carità. Quindi, se te l'hai riparata, tienitela molto stretta, perché ce ne sono poche in circolazione. Io proprio stamattina la stavo usando in 40 metri, stavo parlando con Biagio, che non ti dico la sigla, e stavo usando il 430 col microfono normale. Io uso il 430, il mando laterale, con l'MC50. Capito, il 50 che è da tavolo, però è normale, c'è una modulazione fantastica e soprattutto la ricezione, considerando che la mia, il mio 430 c'ha tutti i filtri, ok, quella siccome sono piccola ratta, filtri ne ha uno solo. Se ne manca uno solo qua, però ho detto che me lo stessa, mi vuole da portare la pentola, mi vuole da portare il niente, poi ho passato in macchina, è andato in macchina, l'ha smontata, un po' con la cavola, ha detto, è silenziosissima, prima la avevo nuovissima questa roba, mi ha messo qua che sono la pentola, ma perché in funzione non la sentiva, prima è entrata anche dentro, nella radio anche in casa. No, l'unica cosa che mi ha rimproverato, come mai ha detto che è amante di queste cose, non c'è l'alimentatore, la colonnina, una volta ho detto una, ho fatto il 40, la avevo anche regalata a Gronte, vabbè, per cui l'alimentatore l'ha sorpresa perché la 40 perché sarebbe stato per l'opera, come si chiama, tutta la linea, però mi chiamo sotto cosa ho fatto, poi io mi chiuso qua, ogni volta capita in mano sua la roba, e mi senti? No, beh, io ho il PS430 che l'ho comprato usato, nuovo e ce l'ho sul 430. L'ho preso da poco, mentre il PS50 è sul 140, la colonnina esterna, manca solo l'accordatore automatico della linea e basta. Lo stiamo cercando con Luca, insomma, stiamo cercando di recuperarlo, capite? Tutto qua. Però ti ripeto, il 430 se è trattato bene, io ce l'ho 10 anni, l'avevo comprato da Walter, quindi ce l'ho 10 anni, ha sempre funzionato bene, gli ho fatto poche cosettine, chiaramente è una radio adattata, quindi la componentistica sicuramente è abbastanza funzionante, ma è chiaro che c'ha l'età sua, quindi bisogna stare molto attenti, bisogna usarle, bisogna accenderle. Io ho fatto fuori il 440 perché mi sono rotto le balle, non le voglio più, basta. Ne ho avuto 8 e tutte 8 ho speso una marca di soldi per farle riparare, perché basta che la lasci un mese spenta, vuoi accenderla, non accende più. Questi sono dei muletti, capito? Sono molto più meccanici e lavorano molto bene, non ti creano problemi, tutto qua. Va bene Gianni, ti ho sentito, ti abbraccio, saluti a casa, mi sto guardando la partita, quindi non posso rimanere in radio. Il controllo trovato, usala e procurati un 60 e poi magari me la fai risentire, ok? Sarà fatto qua. Ringrazio i lavori che stanno facendo alle gallerie. Però questa radio era stata forte. Anche tu ringrazia i lavori delle gallerie per la mascherina per sta meglio. Però adesso siamo in sale, non dico appena. È stato come una casa, andiamo, ci mandiamo ancora in ristorante, perché è troppo in gamba. Adesso se mi gusta, siccome sta per cercare un pacchetto 123 per poco, quello per la linea gialla che mi manca, che l'avevo da ragazzo in macchina, e adesso si ammortone una questione a uno, quando sono, questo viaggiami, stanno facendo se la buia alle gallerie, ti hai capito di cosa sto parlando, non ti posso dire altro qua. Ok, allora per la partita qua noi non andiamo qui, e poi noi la facciamo passare, però c'è tutti anche gli amici in ascolto. Ciao già, saluto a Claudio e a tua moglie e a tutti. Dai, sì, sono nell'altra stanza e mi sto guardando la partita. Appunto, ci sentivamo dopo e ti ho dato. E sono qua. Lascio la stanza. tantissimo, sì, ringrazialo tantissimo anche per il frontalino, per tutto, la radio me l'ha messa a posto, Luca ha fatto un capolavoro, oggi mi ha fatto la connessione all'MB più 5 perché c'aveva un'altra connessione ed è perfetta, veramente sono contentissimo perché è uscita nuova, ok, un abbraccio.